È già lunedì, il primo senza te. Non sai che darei per capire se almeno questo mi servirà. O è solo un altro modo per fuggire da qua? E passo così come un treno che non ferma in stazioni troppo piccole per sé. E tiro dritto, anzi accelero, perché vederti alle spalle dà meno brivido. Ho provato a scrivere parole che mi venissero e giornali sparsi in camera, mentre leggo e riguardo la tua fotografia. Non resterà appesa lì, e so che piangi, ma forse è giusto così. E stammi a sentire ora che sei lì, io ti vorrei lontana, chilometri da qui. I desideri vanno e vengono, ma solo i sogni rimangono e si avverano.